fa parte sempre della stessa matrice progettuale, ovvero la crisi si sfida, poi si può anche decidere di subirla, di attendere che passi. Noi, proprio perché siamo piccoli e forse anche più bisognosi, non vogliamo accontentarci di ricevere aiuti dalla Serie A, cosa che succede attraverso la mutualità, ma vogliamo anche costruirci un modello dignitoso autonomo. E quindi sul fronte infrastrutturale, sapendo che la legge non c'è e probabilmente non ci sarà neanche fino al prossimo anno, e poi Dio provvede con la prossima legislatura, ci siamo costruiti un po' uno strumento che produce, ci auguriamo, gli stessi effetti della legge, senza avere la forza che può avere una legge, che è importante perché risolve la tematica, una delle tematiche più importanti, è la sburocratizzazione, la semplificazione, la certezza dell'iter amministrativo, e poi anche in qualche modo uno strumento di compensazione urbanistica che agevola, in assenza di contributo pubblico monetario, agevola l'imprenditore sportivo a intraprendere il percorso di costruzione di un nuovo stadio. Noi abbiamo costruito Bifutura e lo abbiamo fatto con una serie di soggetti istituzionali, perché Bifutura non è uno strumento commerciale, per realizzare 5 grandi operazioni integrate da loro: l'analisi del contesto, la definizione appunto dell'iter amministrativo, la progettazione standard di stadi che vanno tra i 10.000 e i 20.000 posti, l'implementazione tecnologica, perché i nostri stadi piccoli ma fortemente orientati alla tecnologia e anche alla comodità per chi deve entrarci, e poi la finanziabilità dell'opera e del modello di gestione. Abbiamo coinvolto Union Camere, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, Finmeccanica e Credito Sportivo, unitamente al Ministero dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti. È un progetto complesso che però entro 6 mesi chiuderà la sua prima fase, e noi abbiamo avuto il coraggio, in qualche maniera speriamo non l'incoscienza, di convocarci già il 10, abbiamo presentato il tutto il 15 ottobre e ho detto entro 6 mesi ci presenteremo di nuovo a chiusura progetto di questo primo modulo. Abbiamo già convocato il 10 di aprile del 2013 nello stesso luogo l'Auditorium Fintecna per presentare gli effetti di questo progetto, e da qui ad aprile almeno 2 slot progettuali di realizzazione di opere verranno posti in essere attraverso la collaborazione di Lega, amministrazione comunale e società sportiva. Se pensiamo che negli ultimi 20 anni abbiamo costruito un solo stadio in Italia, che in pochi mesi si riesca a partire con progetti di questa natura, mi sembra che sia un bel segnale che possa servire anche come piccolo fibrillatore di sviluppo territoriale.